Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, puntata particolare come vi ha raccontato il nostro GR24. Alle 18 avremo uno speciale di aggiornamento per fare il punto della situazione. Chiaramente gli aggiornamenti arrivano da questa mattina alle 6 da tutti i nostri GR24, però c'è bisogno anche di maggior spazio e tra l'altro ascolteremo in diretta, se confermato l'orario, la conferenza stampa della Protezione Civile che fa il punto come ci ha abituato ormai a metà giornata e poi verso le 18. Di cosa parleremo nella prima ora? Beh, allora innanzitutto vi dico subito che è molto difficile fare il conteggio, è impossibile fare il conteggio dei danni economici. Ci sono già delle stime che riguardano soprattutto il turismo e soprattutto la città di Milano e di Venezia. E per carità le daremo, però inviterei tutti alla prudenza sulle stime economiche, perché oggettivamente è molto molto difficile anche dare una stima prudenziale. Ho visto poco fa che da Londra diciamo Lorenzo Codogno, nostro ospite molte volte, importante analista finanziario, stima che comunque sarà una recessione tecnica comunque in Italia nel primo trimestre, nel senso che l'Italia già era arrivata nel 2020 frenando come Francia e Germania. Il dato dell'ultimo trimestre è un dato particolarmente deludente e negativo. È chiaro che se a questo sommi anche il parziale blocco dell'attività produttiva, ci vuole pochissimo, se sei già 0,1-0,2, a fare meno 0,1-0,2, e quindi su questo c'è poco da ragionare. Per quello che riguarda invece la borsa, la reazione è molto brutta, un po' anche di speculazione, ma è molto brutta. Devo dire che non è molto brutta, non che questo faccia ma comune mezzo gradio, solo a Milano. Milano è chiaramente la peggiore, perde il 5,70%, però Parigi perde il 4%, Francoforte perde il 4%, Londra il 3,5%, l'America sta cedendo il 3%, sono cali molto pesanti, perché e tra l'altro che fanno il paio con quanto è avvenuto sui BTP, o meglio, scusatemi, sui treasury bond americani, che da questo punto di vista hanno toccato i rendimenti minimi dal 2016. Che cosa vuol dire? Che il BTP a 10 anni americano è crollato nei rendimenti ed è un passo dai minimi storici. Ed ecco che iniziano a circolare ipotesi di un abbassamento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Americana per dare, diciamo, una mano in qualche modo. Questa mattina non era andata meglio, qualcuno mi dice sembra un bollettino di guerra, non so, veda lei. Stamattina non era andata meglio nelle borse asiatiche, perché onestamente Hong Kong, ma soprattutto Nikkei, il Giappone aveva tenuto meno 0,40%, però Seoul aveva chiuso con un calo del 4% e anche Hong Kong di quasi il 2%. L'Euro Stoxx 50, cioè l'indice dei 50 titoli più importanti a livello europeo, perde il 4%, dimostrazione che oggi la giornata è così in tutta Europa. Per quello che riguarda i temi che affronteremo, cercheremo di fare una perlustrazione, ma intanto raccontando come si riesce a fare impresa nella cosiddetta zona rossa, negli 11 comuni isolati, cercando di capire. Chiaramente la stragrande maggioranza dei lavoratori sono rimasti a casa o spesso in smart working, non c'è bisogno di lo smart working, ossia la possibilità di lavorare da casa, viene utilizzato laddove possibile. C'è anche una lista lunghissima e sicuramente incompleta di tutte le aziende che hanno bloccato non solo le trasferte all'estero, ma hanno bloccato da questo punto di vista anche l'arrivo direttamente sul posto di lavoro. Poi dirò qualcosa anche per quello che riguarda due elementi che sono di carattere economico. Sappiamo che l'economia non si muove solo, anzi magari si muovesse solo sulle scelte razionali, spesso le scelte sono emotive, c'è l'incertezza che gioca un ruolo, la sfiducia che ne gioca un altro, e ci può essere anche l'elemento di panico. Quando abbiamo raccontato dei grandi crolli di borsa, l'effetto che gli americani chiamano stampede significa effetto, per quello che riguarda la... Scusate che chiedo, adesso avremo anche dalla regia i dati su chi sta scherzando su queste cose, adesso vi arrivo. Dicevo, l'effetto psicologico è un effetto in economia e a maggior ragione in finanza. E quindi nulla di strano che le si vada a vendere, che vi siano casi come quelli che... Però un limite dobbiamo darcelo. Allora, il limite si chiama, da un lato, la miseria umana, e per non dire altro, di chi sta speculando sui prezzi di alcuni beni. Il Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica. Ho detto Tokyo prima, scusatemi, Tokyo era chiusa, ci mancherebbe. Il Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, alla Guardia di Finanza, perché ha scoperto scenari da sciacallaggio vero e proprio. La mucchina è intervenuta la stessa Amazon, che costa circa 4 euro, veniva venduta a 30-35 euro su Amazon, ed è intervenuto lo stesso gruppo, rimuovendo le offerte che vanno a violare le loro regole. Tra l'altro, la Angelini, che produce disinfettante, ha detto è aumentata la produzione, non c'è stato nessun rincaro da parte nostra. E il gel, appunto, è andato da 3 a 25 euro in alcuni casi, più 650%. Non parliamo delle mascherine, che prima del coronavirus erano a meno di 10 centesimi l'una, oggi arrivano a costare 2 euro, più 1700%. E questo è un fronte, per cui insomma speriamo che gli sciacalli vengano beccati, e beccati tutti. L'altro fronte però riguarda tutti noi, perché un conto è informare, stare attenti, mettere in atto, come abbiamo fatto qui a Sole 24 Ore, come hanno fatto tutte le imprese, misure di prevenzione. Altra cosa è entrare nella dimensione, diciamo, dell'irrazionalità più totale. Un conto dell'emotività, un conto dell'irrazionalità. Ma insomma, adesso ne parleremo nella seconda ora. Oggi la situazione dei supermarket, com'era prevedibile, tranquillissima nella zona di Milano e provincia. Ma io ieri con i miei occhi ho visto uscire persone con 7-8 litri in mano, 4-5 casse d'acqua, ma non hanno mica bombardato l'acquedotto di Milano o di Lodi o della Lombardia. Cioè, l'acqua continua a uscire dai rubinetti ed è anche buona quella di Milano, lo dicono i pediatri, è ricca di calcio. Quindi voglio dire, cerchiamo di non essere noi gli sciacalli di noi stessi. Io non so cosa se ne farà uno con quegli 8 litri di latte che si è comprato ieri, se li deve bere tutti, auguri, diciamo, per la... Così, per i rischi intestinali in quel caso, perché vedere la gente uscire con l'acqua è veramente una cosa da malati, posso dirlo, nel momento in cui non c'è un problema di rifornimento idrico in Lombardia. È da malati e basta. Poi dice, tanto l'acqua l'ho comprata, la userò, va bene, per carità. Però cerchiamo di evitare tutto ciò che non ha niente a che vedere neanche con un minimo di ragionamento. Comunque, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Vi ricordo anche che Radio 24, in accordo con l'Associazione Italiana di Virologia e quindi con Nicoletta Carbone, poi a condurre tutte le mattine, siamo partiti questa mattina, all'interno del programma di Alessandro Milan, nello specifico dalle 10:30 di mattina in poi, vi sarà l'appuntamento con un virologo dell'associazione che risponde alle domande, quindi microfoni aperti, soprattutto centralino attivo degli ascoltatori. Lo faremo risentire le risposte più importanti questa sera, anche in effetto notte, e poi sempre domani mattina alle 6 di mattina. Andiamo con le notizie in breve. Ecco, mi fanno notare che un signore, che le mascherine, le ultime mascherine di nuovo modello FFP3 costano 3,25 euro, ma su web stanno già girando tra i 12 e i 40 euro. Questo è veramente lo sciacallaggio. Tra l'altro, ho visto la Croce Rossa italiana mettere in guardia: non esiste un operatore della Croce Rossa che stanno andando porta a porta, quindi non aprite a chi vi dice che viene lì per farvi il tampone, perché abbiamo pure, oltre che gli sciacalli, non so cos'altro si può dire, sono un sciacallo. di banditi veri e propri, truffatori veri e propri. Quindi mi raccomando, e cerchiamo di non alimentare questo clima. Comunque, parte economica, dunque, per sapere i titoli, cioè il peggior titolo è la Juventus, meno 11%. Ferragamo, la moda, perde il 9,70, Nexila 8,20, Saipem 7,60, Case New Holland meno 7,5, Azimut meno 7,30, Post meno 7, come stima Electronics e Banca Generali, Leonardo meno 6,60, Amplifon meno 6,60, Banco BPM meno 6,5, come Unipol. E mi fermo con chi perde il 6%, Buzzi Unice meno 6,5, Ubi meno 6,40, Exor meno 6,20, come Mediobanca, Fineco meno 6,15, come Fiat Chrysler, Intesa San Paolo meno 6, come Biper Bank. Il miglior titolo, giusto per far capire la giornata, è Terna, che perde tra virgolette solo il 4%. Però anche qui, attenzione, la borsa di Milano nelle ultime settimane aveva aggiornato nuovi record. Quindi, se il problema è che tutti sono andati a vendere per un po' di panico e la situazione poi si tranquillizza, la recuperi in poco tempo, la borsa viaggiava su livelli già altissimi, può sostenere, diciamo, un calo del genere. Anzi, qualcuno ne ha approfittato anche per portare a casa i guadagni. Il problema è la variabile temporale, tutto qua, non è il calo in sé di oggi. Ecco, mi stanno arrivando segnalazioni che una mascherina FFP3 a Verona, una farmacia, la vende 25 euro. Ragazzi, il costo è intorno ai 3 euro, fate voi il calcolo, no? Allora, per quello che riguarda le stime, allora, qualche buona notizia c'è. Ci sono dalla Cina, per esempio, 6 province hanno ridotto il livello di allerta, portandolo da 1, che è il livello più alto, a 2 o a 3. Poi province anche grosse come Guangdong, lo Guizhou, Liaoning. Non c'è stato invece nessun allentamento sulla quarantena nella zona di Wuhan, dove, diciamo, è nato il coronavirus. La Toyota però ha riavviato la produzione in un impianto cinese, nello specifico quello di Chengdu. Per quello che riguarda invece l'Italia, lo spread italiano è schizzato a 145, cioè ha preso 11 punti rispetto a venerdì, a dimostrazione che lo spread non si muove con un complotto contro un governo di un colore piuttosto che a favore di un altro. Lo spread si muove in base alla fiducia degli investitori, a quanto ti chiedono per finanziare il tuo debito in questo caso. Mi stanno scrivendo molti ragazzi, un ristoratore di Verona che fa anche catering, hanno perso prenotazioni per 20.000 euro in meno di 24 ore. Guardate, è impossibile in questo momento. Alcuni danni ci sono già stati. È chiaro che se tu chiudi una manifestazione, un evento, un conto è rimandarlo. Il Mido, il più importante salone dell'occhialeria al mondo, doveva essere a Milano, è stato rimandato. Altra cosa se è un evento che poi non si ripropone più. Allora, io non lo so, e ecco perché la variabile temporale è fondamentale. Nel caso suo del catering e del... Chiaro che se magari uno non se la sentiva, ci mancherebbe adesso, può rimandare l'evento fra un mese. Allora, tutto sommato, alla fine dell'anno il calcolo, il danno sarà molto limitato. Però la variabile temporale non è una variabile ininfluente in questo momento, perché se non riesce a programmarlo. Poi devo dare una risposta a chi dice: siete voi giornalisti a creare il panico. Allora, questa di solito, questa arriva sempre. Allora, guardate, noi abbiamo l'obbligo di informare, e tutte le informazioni che ci arrivano dal Ministero, dalla Task Force, dalla Protezione Civile, il numero di casi, di informare correttamente. Cioè, faccio notare che il sesto morto, perché la settima non era... Era una persona che era arrivata in ospedale per un attacco cardiaco. Cioè, al momento stiamo vedendo che c'erano delle complicazioni di altro genere, e questo è importante dirlo, così come è importante far notare che la progressione, se il numero sarà confermato a 220, è leggermente rallentata. Giustamente fanno notare molti virologi che se in altri, forse, che probabilmente se in altri paesi, Germania o Francia, si mettessero a fare un campionamento a tappeto come viene fatto in questo momento, probabilmente si scoprirebbero molti casi anche lì. Quindi le informazioni vanno contestualizzate, ma non è che non vadano date. Allora, vediamo un attimo l'impatto. Per ora sono stati stanziati 20 milioni per l'emergenza. La Banca d'Italia stima che l'impatto sul PIL potrebbe essere di oltre lo 0,2%. Ecco perché gli economisti dicono si andrà a questo punto in recessione. Oh, adesso però non posso rispondere a tutti gli ascoltatori, però a chi mi scrive: sì, ma non parlate da altro che da una settimana. È vero. E lei invece, quando va al bar o in giro, di cosa sente parlare da una settimana? Mi spieghi. Siamo noi che parliamo di una cosa che non interessa, o qualunque cavolo di posto in cui vado si parla del coronavirus? Non siamo noi a essere usciti dai supermercati con le casse, con le piramidi di casse d'acqua e di latte, eh? Abbia pazienza, su. Comunque andiamo avanti, dicevo, l'Italia verso la recessione, questo lo sostengono la maggior parte degli economisti in questo momento, addirittura quantomeno recessione tecnica. Allora, per quello che riguarda l'aiuto zone rosse, come si chiamano ormai, il Ministero dell'Economia e Finanze sta predisponendo un decreto che bloccherà il pagamento delle tasse negli 11 comuni della zona rossa, e il decreto sarà in Consiglio dei Ministri appena possibile. Così come potrebbe esservi un decreto DL crescita dentro al documento economico finanziario, dopo aver visto la situazione e aver avuto un computo più dettagliato della situazione. Si va verso lo stop anche al pagamento delle bollette, gas, elettricità. Alcuni gruppi bancari, Intesa San Paolo è pronta a sospendere la rete dei finanziamenti per le famiglie e le aziende dell'area della zona rossa, quindi degli 11 comuni della zona rossa, e questa è la situazione in generale. Ora c'è un flash d'agenzia che leggo appunto come da giornalista, perché devo riportare le notizie. Allora, i ricercatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono arrivati alla conclusione che in Cina la diffusione del coronavirus ha raggiunto il suo picco tra il 23 gennaio e il 2 febbraio, e da allora ha cominciato a diminuire in maniera consistente, che non ci dà nessuna garanzia su quello che capiterà da noi. Però, insomma, visto che le buone notizie le vanno cercate con lanternino, oggi mi sembra una buona notizia. Se il picco è tra il 23 e il 2 febbraio e da allora è cominciato a diminuire in maniera consistente, questo fa il paio con la decisione di 6 province cinesi di abbassare, come ricordavo prima, il livello di allerta da 1, a che è il livello più alto, a 2 o 3. Dunque, abbiamo moltissime domande anche su altri temi, adesso vi arriveremo anche nella seconda ora del programma, che è tutta dedicata alla cronaca vera e propria. Partiamo invece adesso con, non un bilancio, ma partiamo con una testimonianza, per meglio dire. Guardate, è impossibile, lo dico a alcuni ascoltatori che scrivono al 349-238-6666, è impossibile avere anche un'idea di computo. Certo che poi parleremo con chi gestisce le agenzie di viaggio e il settore alberghiero, lì è un po' più facile, ti cancellano le prenotazioni e il danno lo vedi subito. Ma voi provate a immaginare tutti gli incontri di lavoro, incontri di business, al di là delle fiere, che erano previsti in questi giorni. Si stanno cancellando anche i pranzi di lavoro, figuratevi un incontro con più di 2 persone per firmare un accordo, tutto quello che non riesce a essere fatto poi online. Mi scrive giustamente un product manager del distretto calzaturiero di Montebelluna: stamattina ha passato era in Austria, stava andando in Germania, e gli hanno detto che un grande marchio di outdoor che non gli era permesso, in quanto lui veniva dal nord Italia, di entrare nei loro uffici. A Monaco gli è successa la stessa cosa. There is a ban over Veneto and Lombardy Italian people, quindi c'è un divieto di accesso per chi arriva dal Veneto e dalla Lombardia. Ragazzi, il racconto è bellissimo, perché poi per riuscire a l'hanno tenuto a 2 metri di distanza. Sì, la cosa pazzesca è che dalla sindrome cinese, cioè il fatto che per settimane siamo andati avanti a disertare i ristoranti cinesi, a guardare con sospetto ogni cinese o chiunque arrivasse, c'erano anche dei motivi, dall'Oriente. Adesso lo dico con una battuta, stiamo diventando i cinesi d'Europa noi, cioè la gente, no, parlo di chi sta in Lombardo-Veneto, con buona pace, diciamo, pensa come si invertono le cose. Adesso al sud Italia non ti vogliono, nel senso che avete visto cosa è successo, ti controllano, bloccano, se arrivi da Lombardo-Veneto, e quasi quasi preferiscono un cinese a un Lombardo-Veneto. È la fine di tutto. Allora, sì, è fine di tutto, ma io immagino anche che ormai è il Deliveroo che ha paura a consegnarti la roba, non tu che hai paura del Deliveroo come era prima, cioè tutto inverte. Questo dice anche lunga, bisogna sempre stare attenti, sempre stare attenti. Allora, Lorenzo Dornetti, fondatore di Neurovendita, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Dove ha sede Neurovendita? La nostra sede è a Castiglione d'Adda, quindi uno di 10 comuni, insomma. Siete nell'epicentro, diciamo, del... Esatto. Allora, una delle 11 zone rosse, quanti dipendenti ha e che fatturato? Noi siamo in 31 collaboratori e abbiamo un giro d'affari sui 3 milioni di euro all'anno. Ecco, mi dica come si vive, perché 30 dipendenti, lei è proprio l'esempio più lampante di un'azienda delle piccole dimensioni, io conosco molto bene quell'area, ci vado molto spesso, insomma, è un'unica grande provincia senza soluzione di continuità, dove appunto... Tra Codogno, Castiglione, ci sono imprese, abitazioni, imprese, abitazioni. Non si capisce dove finisce un paese e dove inizia l'altro, no? Per cui, insomma, è chiaro che voi siete abituati da sempre a quello che si chiama commuting. Mi dica che cosa ha fatto lei e che come si riesce a fare imprese in questi giorni. Allora, in questi giorni, vabbè, inizialmente subito venerdì, anche vedendo cosa si faceva dalle altre parti, l'idea è stata immediatamente mandare a casa le persone, appunto un po' presi dal panico. Poi noi abbiamo la fortuna in realtà di poter svolgere il nostro lavoro, che è un lavoro di consulenza, di selezione, eccetera, quindi molto da remoto, per cui abbiamo provato ad affrontare con razionalità la confusione, per cui abbiamo lavorato, insomma, nel fine settimana anche con i nostri partner di IT per cercare di rendere, insomma, di provare a continuare a lavorare, e devo dire che ci siamo quasi riusciti, nel senso che il 70% dei nostri collaboratori sono attivi, ovviamente in smart working, e i clienti hanno apprezzato. Noi abbiamo la fortuna di lavorare con clienti sia nazionali sia internazionali, per cui diciamo che volevamo dare una prova di continuità, anche perché la competizione è molto forte nel nostro mercato, per cui il rischio anche di perdere posizioni è immediato, per cui abbiamo provato, insomma, a dare continuità alle attività di selezione e alle attività di consulenza. Quindi voi, no, io voglio fare questo racconto anche al resto d'Italia, che per fortuna non ha testimonianza diretta di quello che è accaduto negli 11 comuni. Lombardo-Veneto è un po' un'esagerazione, la zona rossa riguarda gli 11 comuni. Vedo molti messaggi sul fatto che sì, in effetti i controlli, guardate che se uno vuol fare una battuta, per andare a Monaco, a Francoforte o in altre città, ti conviene prendere un bel volo da Roma o da Palermo e dici che sei arrivato da Palermo. Se poi sviluppi anche un accento del sud, ci vuole un po' di lavoro, però non ti bloccano più. Lei di dov'è? Di Milano? E via così, per cui attenzione, però i controlli li stanno facendo sia a Flexibus che agli Autobus, a tutto ciò che proviene dalla Lombardia in primis, anche perché come hanno scritto qualcuno mi dice la rivincita di Napoli, vabbè, come hanno scritto molti giornali stranieri, la Lombardia sta rappresentando il vero e proprio test e caso su scala mondiale. Perché? Perché ha un sistema sanitario di tutto rispetto, che non ha niente da invidiare a quello di altri paesi europei. È una democrazia l'Italia, quindi diciamo, il laboratorio vero e proprio non è la Cina, di cui pochi ancora si fidano e dove le informazioni arrivano, diciamo, come vuole il governo cinese. E qui si può vedere, ahimè, dico ahimè perché l'esperimento ce l'abbiamo qua in casa, si potrà vedere come reagisce una democrazia occidentale con un buon sistema sanitario ha il coronavirus, al di là delle informazioni che ti arrivano dalla Cina. Ecco perché tutto il mondo e la maggior ragione gli europei ti guardano. Allora, dicevo, voi venerdì avete mandato tutti i collaboratori a casa. Esatto. E chi era fuori sede è stato richiamato? Chi era fuori sede è stato richiamato, sì. Che è un po' una cattiveria, perché quello era meglio se stava fuori sede, tutto sommato. Sì, diciamo che non c'è dopo questo, sì, però cioè, l'avete richiamato la zona rossa. Esatto, però non poteva più poi rientrare, esatto. Poi non poteva più rientrare. Io ho alcuni collaboratori che stanno in realtà non in zona rossa, per cui però assolutamente sì. Oh, dopo il metro vorrei sapere, visto che lei collabora con un quinto dei marchi di numero uno, dei top brand mondiali, come ha fatto poi successivamente a non perdere i suoi partner informatici? E cosa avete messo in campo sabato e domenica, lunedì? Oggi cosa avete fatto? E lei in questo momento dove ci sta parlando? Dalla fabbrica o da casa? No, io sono a casa in questo esatto momento. Ok, bene, vedo. No, lo usiamo anche qualche battuta. Adesso arriverà il cartello al sud, non si affitta ai settentrionali. Ragazzi, è nemesi. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora, adesso torno da lei, Lorenzo Dornetti, fondatore di Neurovendita, che ha sede a Castiglione d'Adda. Due risposte da alcuni ascoltatori. C'è qualcuno che continua a dirmi: questo è il risultato delle folli politiche della sinistra, paesi di immigrazione fuori controllo. Senta, qui non stiamo parlando della tubercolosi, di polmoniti. Forse non è chiaro che gli infettati non si riesce ancora a trovare il paziente zero. Per ora sono tutti italiani. Qualcun altro mi chiede: ma perché dei casi così alti? Allora, tanto visto che è un programma che si occupa di numeri, dobbiamo dare anche i numeri. Noi siamo a 6.000 tamponi in Lombardo-Veneto contro 400 in Francia e 600 in Germania. Okay? Non voglio tirare i tedeschi e i francesi, ci mancherebbe. Però attenzione, perché da questo punto di vista noi stiamo anche facendo uno screening molto più alto degli altri paesi, mentre vedo che adesso poi vi faremo ascoltare alcuni passaggi della conferenza stampa. Sono 171 i contagiati ad oggi, e quindi attenzione, non c'entra niente. Poi sul perché del numero di casi così alto, al di là di uno screening così alto, che non esiste in un altro paese uno screening così alto, molti virologi che abbiamo avuto anche ospiti sottolineano il fatto che, se dovesse essere confermato che l'esplosione è avvenuta in un ospedale, l'ospedale di Codogno, dove ahimè anche lì i medici, quando il paziente 38enne è arrivato, non erano con mascherina, perché sembrava un altro tipo di infezione, gli ospedali per loro natura diventano delle bombe da questo punto di vista virologico, quindi aumentano il numero di casi come non riuscirebbe a fare nessuna famiglia o pochissimi altri luoghi di lavoro. Per ora la cosa che sembra confermata, però, per ora, è che le morti riguardano pazienti anziani con grosse complicazioni già in precedenza. Non che questo mi faccia stare meglio, e massima cordoglio ai pazienti anziani, però è inutile girarci attorno, capite tutti la differenza tra un paziente già critico e anziano, e se dovessero avere delle, diciamo, casi a cui non voglio nemmeno pensare, di adulti sani. Allora, Dornetti, voi avete bloccato la fabbrica venerdì. Che cosa si è inventato lei nel fine settimana per non perdere i clienti, visto che lei ha nel suo, diciamo, portafoglio un quinto dei numeri uno mondiali come marchi? Ma in realtà noi paradossalmente siamo una startup che è nata presto, per cui non eravamo abituati, non eravamo organizzati per lo smart working, per cui le cose più semplici che abbiamo fatto è stato quello, con i nostri partner informatici, di essere in grado di lavorare da remoto, che poi vuol dire semplicemente avere accesso insieme ad esempio allo stesso file, o avere accesso a diverse caselle di server in parallelo, cose che quando si collabora in un ufficio ad esempio è molto semplice fare. Per cui la prima cosa che abbiamo fatto semplicemente è stata questa. E questo ci ha consentito, soprattutto per l'attività di ricerca e selezione di profili commerciali che non si possono fermare per i nostri clienti, di dare continuità all'attività. L'altra cosa, ci siamo, in realtà, siccome avevamo pochissimo tempo di, diciamo, i contatti tra noi non potevano esserci, per cui abbiamo abbinato ad alcune presentazioni che dovevamo mandare e dobbiamo mandare nei prossimi giorni, un vocale in sostanza, cioè quindi insieme alla presentazione che magari dettaglia un progetto c'è un vocale che la racconta, e questo ci permette quindi di riuscire anche da remoto, che ovviamente ha una capacità di comunicazione completamente diversa rispetto invece a quando si è sul vis-à-vis, semplicemente di dare una traccia alle persone e poi anche con dei sistemi di formazione a distanza di essere comunque efficaci nell'ambito, ad esempio, di una riunione o insomma di un colloquio, in questo caso da remoto. Per cui abbiamo fatto cose semplici, perché noi in realtà non siamo una società che era organizzata per fare smart working, però era necessario, perché altrimenti saremmo stati fermi per 15 giorni o comunque per troppo tempo. Senta, adesso la domanda più difficile, dopo che siete riusciti a comunicare con i clienti, che mantenevate una continuità, trasformavate le consulenze in conference call, alcune aule appunto di formazione sono diventate via web, insomma, ok, avete lavorato come si dice in gergo da remoto, quanto riuscite a reggere in questo modo senza toccare in senso grosso l'attività? Se i tempi sono quelli che ci hanno comunicato, 15 giorni, secondo me non dovremmo avere ricadute sui clienti. È chiaro che tempi più lunghi potrebbero iniziare ad essere più un problema, perché è chiaro che ovviamente invece tutte quelle attività che non si possono svolgere da remoto, ad esempio noi abbiamo un lab di neuroscienze per cui devono venire delle persone, effettuare delle prove che noi poi dobbiamo elaborare. Noi oggi stiamo lavorando ovviamente con i dati che abbiamo raccolto nelle settimane precedenti, ma se dovessimo tenere chiuso il lab per 3-4 settimane è chiaro che non avremmo più dati, e anche in realtà alcune attività di formazione ovviamente necessitano il vis-à-vis, per cui non potendolo fare alcune ovviamente sono state sospese. Diciamo che se i tempi sono veri, quindi 15 giorni eccetera, per quello che è il nostro servizio di selezione di consulenza e di formazione ce la facciamo. Se è più lunga, sicuramente il tempo gioca contro di noi, però ecco, a me personalmente, visto che siamo una startup, abbiamo fatto veramente fatica negli anni a conquistarci una posizione con i brand con cui lavoriamo, era di dare l'immagine, soprattutto alcuni sono brand internazionali, insomma che c'eravamo, che teniamo, e che c'era, certo, il problema, ma che insomma, sì, che non mollavamo, ecco, questo era. Ebbene, devo dire che la reazione dei clienti è stata molto buona, questo mi fa molto piacere. Dunque, vedete che c'è della roba pazzesca. Allora, andiamo con ordine. C'è chi continua a scrivermi sui cinesi. Lei vuol dire che il paziente zero non era un cinese? Bravo. E allora, che il coronavirus si sia sviluppato nello Wuhan e lì isolato per la prima volta lo sanno anche i sassi, ma non abbiamo nessun motivo per sapere se è stato un cinese o un italiano, che era come migliaia di italiani. Ci sono 40.000 tedeschi residenti in Cina, 4.000 italiani, 12.000 olandesi, 20.000 francesi, un italiano che fosse andato in Cina per lavoro e rientrato all'Italia. Non lo sappiamo, ma non sappiamo neanche se fosse un italiano che era andato a Londra e avesse incontrato un londinese che veniva dalla Cina. Non lo sappiamo, quindi che cosa vuol dire chi è stato sicuramente un cinese? Ma ogni tanto io capisco coronavirus, ma qui non c'è coronavirus che tenga, qui si tratta solo di collegare il cervello con il resto del corpo, traffico. Focus Economia. Allora, nel ringraziare appunto e a guardare in bocca al lupo a tutti i dipendenti della Neurovendita, quindi Lorenzo Dornetti, andiamo invece sulle grandi aziende, sulle associazioni di categoria, là dove si riesce già ad avere, ahimè, un primo dato. Allora, al di là di tutte le attività di prevenzione che hanno preso tutte le imprese presenti sul territorio lombardo e veneto, Eni, Enel, Saipem, Snam, Smart Working per tutti i lavoratori che hanno residenza o lavorano in uno dei comuni interessati, Leonardo ha sospeso tutte le trasferte nazionali e internazionali, pure Pirelli, Armani ha presentato una collezione a porte chiuse, lo sappiamo, anche Biagiotti, Todd's, Smart Working per limitazione di trasferte per tutti, Fiat Chrysler, Case New Holland, l'attività riprende ma non dove vi sono stati chiaramente casi. Allora, TIM ha sospeso gli interventi tecnici non urgenti nelle regioni coinvolte, Louis Vuitton Moanesi ha detto stop ai viaggi di lavoro da e per l'Italia, Gucci ha chiesto di limitare tutte le trasferte e utilizzare lo smart working, e via così. Il cinema ha fatto meno 44%, ma non mi sembra il problema più grosso, perché qui iniziano ad esserci anche le prime stime sul danno al settore del turismo. E allora Ivana Jenic, presidente di FIAVET, che è l'associazione che riunisce le agenzie di viaggio. Buonasera. Sì, salve, buonasera. Buonasera a voi. Allora, senta, io non vorrei essere in un albergatore veneziano, perché si sono beccati prima l'acqua alta e adesso ho visto una prima stima dell'Associazione Nazionale Veneziana degli Albergatori, meno 40%, cioè 40% di disdette. Milano siamo al 30% di disdette, lo dice Federalberghi, cioè con 30% di cancellazioni, soprattutto le cancellazioni corporate, chiaramente convegni, appuntamenti di lavoro e quant'altro. I turisti di solito no, perché prenotano sotto data e magari aspettano, ma sono prenotazioni meno, diciamo, che si fanno sotto data, non così programmate. E poi vedo che il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, dice insomma la situazione del turismo sta precipitando. Che dati avete voi come operatori turistici? Perché mi sembra chiaro che mentre prima sì, vado a mangiare al ristorante cinese, non so se stasera o domani, ma ci vado sicuramente, adoro il cibo cinese, lo dico a un ascoltatore che mi scrive, però mi piace anche il cibo lodigiano, anche la raspadura, e andrò a mangiare anche quello se, e anche la cassola, ci mancherebbe, stiamo scherzando. Però dico una cosa, prima il nostro timore era solo il mancato arrivo dei cinesi e diciamo di buona parte dei turisti asiatici. Se ho ben capito, il problema è che adesso qua, siccome alcuni ci trattano a noi da, diciamo, da cinesi d'Europa, il vostro timore è che stiano cancellando tutti anche gli altri europei? No, io mi permetta di fare una battuta. Io non vorrei essere un agente di viaggio quale sono in questo momento. Perché in realtà la situazione paradossalmente è anche un po' peggiore rispetto a quello che si diceva prima del mondo degli albergatori. Perché ad oggi noi abbiamo questa fotografia qui. Ovvero, noi abbiamo il mercato cinese sostanzialmente fermo, quindi non si parte e non si arriva dalla Cina, ed è già un primo danno per le agenzie di viaggio e i tour operator. Poi abbiamo il blocco totale, in questo momento, almeno per le prossime un paio di settimane minimo, su tutto quello che è il turismo scolastico, che è un comparto che vale una roba come 1,5 miliardi di euro nel suo complesso. E adesso, ultimissima ora, quindi il turismo scolastico parte da ieri, da oggi abbiamo anche il problema di essere percepiti all'estero e quindi da tutti i turisti stranieri, europei e extraeuropei, come la Wuhan. Cioè, il focolaio europeo. Esatto, lei tenga conto che io ieri ho rilasciato un'intervista per una radio canadese dove mi si chiedeva: Presidente, ma ci dica la verità, il governo italiano sta tenendo nascosta la situazione? Perché effettivamente com'è la situazione davvero in Italia? Qual è il livello di dramma che state vivendo? E io ovviamente ho cercato di spiegare. Lei abita a Roma? Io abito in Umbria, quindi, per lavoro sto a Roma e ho cercato di spiegare che, voglio dire, noi non siamo la Cina, non c'è un nascondimento delle informazioni, non siamo un paese sotto assedio e quindi abbiamo ancora, ringraziando il cielo, un livello di situazione assolutamente normale, in quanto il nostro sistema sanitario è efficace ed efficiente e quindi, voglio dire, la vita in Italia sta andando avanti normalmente. Però la percezione sui mercati stranieri è allucinante. Sì, purtroppo devo dire che questa cosa l'abbiamo già vista. Adesso ricorderete che a Venezia furono disdette le prenotazioni su aprile perché gli stranieri, soprattutto non europei, avevano paura dell'acqua alta ad aprile. Eravamo a novembre, figurati quando ti arriva una roba come questa. Ma è compromesso anche il cosiddetto outgoing, cioè qui parliamo dell'incoming, degli stranieri che devono venire in Italia, e poi voi lavorate anche con gli italiani che vorrebbero andare all'estero. E certo, ahimè anche questo, già nelle ultime settimane noi abbiamo visto un crollo delle prenotazioni, perché chiaramente anche con nazionali, a seconda di quello che ovviamente usciva sulla stampa, quindi la psicosi, il terrore si stava cominciando a diffondere e quindi anche chi aveva prenotato vacanze per il breve periodo, ma addirittura chi voleva prenotarle per l'estate, quindi nella piena stagione estiva, ha iniziato semplicemente a non prenotare più, a non confermare più. Adesso chiaramente siamo ancora più nella psicosi e nel terrore di muoversi e quindi il rischio che tutta la stagione estiva venga totalmente, completamente compromessa. E questo sì, laddove non abbiamo, appunto, stiamo parlando di un virus che adesso io tocco fermo, insomma, il cui tasso di mortalità è ancora, vabbè, adesso non voglio fare, poi ascolteremo la parte virologica e medica, io mi occupo in questo momento delle reazioni di massa e in questo caso, sì certo, è colpa di certi giornalisti, guardi che a me non sembra che di aver descritto, purtroppo, sa cos'è, lo dico un ascoltatore, che quando le foto che poi facciamo o i servizi che poi facciamo, come racconterà nella seconda ora Rosanna Magnano, raccontano di tantissimi cittadini che non sono giornalisti ma escono, come ricordavo, con le casse d'acqua, le casse di latte, svaligiare, è difficile non dire che c'è un po' di panico a Milano. Allora chi è il, diciamo, pirla? Il giornalista che racconta di quello che esce con le sei casse d'acqua manco avessero bombardato l'acquedotto di Milano, o quello che compra sei casse d'acqua pur avendo un rubinetto che scorre? La domanda è sorge spontanea, come diceva Lubrano, chi è il pirla? Abbia pazienza, ma oggi no, con le reazioni che ho visto avere da cittadini normali, sentire che adesso il problema sono i giornalisti, quando qua anche in questa radio gente non ha neanche avuto coraggio di ragionare ogni tanto sulle cose, su, per favore. No, con tutti i difetti che hanno i giornalisti, ma non mi sembra che l'allarmismo lo stiamo facendo noi. Ma ha scritto un ascoltatore di Padova, adesso devo riprenderlo perché era bellissimo, è andato in supermercato vicino a Padova a cercare le fette biscottate, adesso lo riprendo, era tutto esaurito anche perché tutto il paese era nel supermercato, che è il modo migliore per isolare un virus, andare tutti a fare la spesa al supermercato comprando cose che magari andranno male. Allora, senta, voi invece state pensando a qualche contromisura da questo punto di vista, Presidente? Perché insomma, lei non è la stampa in quanto tale e di certo non è mia intenzione criminalizzare la stampa, ci mancherebbe altro. Ha capito? È ovvio che la psicosi ha ingenerato nelle persone delle reazioni e dei comportamenti, le ripeto, già da settimane c'erano degli atteggiamenti che erano assolutamente fuori dalla norma. Persone che, voglio dire, non prenotano un viaggio in Australia a agosto, lei capisce che è fuori dalla logica, oppure non prenotano la vacanza in Sicilia o in Sardegna, italiani stessi, è totalmente fuori dalla logica e dal buon senso. No, ma anche dalle informazioni che riceviamo, perché se continuano a dirci che il virus dovrebbe crollare con il caldo e obiettivamente nelle zone non c'è nulla, comunque dai. Voi avete intenzione di fare, per concludere dottoressa, una campagna di comunicazione fra poco o è ancora troppo presto? Allora, ancora sicuramente troppo presto. In questo momento la nostra priorità è orientata chiaramente nel cercare di limitare i danni e quindi stiamo interloquendo. Io ho appena chiuso, prima di risponderle, una riunione con altre associazioni di categoria del nostro comparto e con il Ministero del Turismo, proprio per cercare di capire quelli che possono essere le azioni che il governo può mettere in campo in questo momento per aiutare le imprese e i lavoratori coinvolti, perché non dimentichiamoci che qui si sta parlando di una roba come 12.000 imprese coinvolte che si stanno vedendo, che è il mondo delle agenzie di viaggio e dei tour operator, che si stanno vedendo praticamente sfaldata l'attività a livello complessivo, perché qualsiasi segmento noi stiamo citando è praticamente in una condizione allucinante. Quindi la priorità prima è chiaramente salvare i posti di lavoro e salvare le imprese, non permettere che la situazione degeneri e quindi crei ulteriori danni. Fare anche un po' di comunicazione alla gente, di avere un po' di granussali. Sì, io non capisco come tu faccia a cancellare un volo da qua all'Australia ad agosto o per la Sicilia a luglio. Mi resta misterioso, ma ripeto, mi resta misterioso perché ho visto ieri uscire fior fior di persone che avevano un aspetto anche, diciamo, così normale, con litri e litri di latte, casse e casse di acqua. Grazie intanto, in bocca al lupo anche a tutti, a tutto il mondo delle agenzie di viaggio. Grazie alla presidente di Fiavet Ivana Ljenić. Andiamo sul GR24, poi la borsa che la commentiamo a fa oggi e la cronaca della giornata e la nostra Rosanna Magnano che appunto entra in giro a Milano a capire psicosi o così o colpo di sole. 349 238 6666 per SMS WhatsApp.